di studenti e studentesse, ma anche di lavoratori sfruttati dentro l'università. E già dalla mattina davanti alla Minerva si sono concentrati quasi 200 studenti e studentesse, e per appunto far sentire la propria voce a Frati che se ne andava, e quindi cogliere l'ultima occasione per mandare a quel paese quello che è stato il rettore della Sapienza Persiani, anche un rettore particolarmente non amato dal corpo studentesco. Già dalla mattina appunto 200 persone si sono ritrovate davanti alla Minerva, e la prima azione che è stata lanciata è stato appunto questa chiazza rossa dentro la fontana, che stava a significare l'università dissanguata dai tagli e dalle privatizzazioni negli ultimi anni. Sicuramente appunto l'azione ha avuto il merito quantomeno di bucare lo schermo, visto che è stata ripresa da molti media mainstream, e da lì in poi appunto si è provato a fare un giro per la città universitaria, sensibilizzando gli altri studenti che si trovavano a lezione o in giro su quanto succede oggi nell'università, e anche sulla giornata vera e propria, e quindi il poter contestare per l'ultima volta Frati e dare il benvenuto a Gaudio, facendogli capire che se pensa che dentro l'università non ci siano possibilità di fare un'opposizione allo smantellamento totale di welfare per gli studenti, agli affitti che si alzano, ai testi che costano sempre di più, si sbaglia di grosso, perché ci sono dentro l'università delle sacche di resistenza e niente male, che provano di giorno in giorno nella quotidianità a costruire un'università diversa dal basso e che sia accessibile a tutti. E la numerosità del presidio appunto ci ha portato a trasformarlo in corteo per le vie della città universitaria. E a proposito del tema degli spazi, tema a noi tanto caro, visto che da anni proviamo a occupare spazi dentro l'università anche con discreto successo, siamo tornati sotto al lucernario occupato, un'occupazione che era nata il 12 ottobre del 2013, che era stata anche protagonista delle lotte l'anno scorso e diventato punto di riferimento a livello cittadino, vista anche la sua centralità, e che è stato sgomberato il 6 di agosto quest'estate dalla questura in combutta con Frati e il rettorato. E era stato sgomberato in qualche modo per provare a tagliare le gambe a questa comunità resistente che si era costruita dentro l'università, che già più volte aveva dimostrato di non abbandonare facilmente il lucernario, e già a seguito di un primo sgombero avvenuto in giugno si era riusciti a rioccuparlo. Davanti al lucernario con questo corteo sono stati distrutti due pezzi del muro che oggi chiudono quelle porte, e sono stati caricati in un carrello e depositati davanti alla porta del rettorato, a simboleggiare in qualche modo le macerie dell'università che siamo costretti a vivere, e abbiamo provato a riportarle sotto la porta di chi è responsabile di queste macerie. Oltre a ciò, insieme appunto ai lavoratori delle pulizie, sono stati depositati sacchi della spazzatura con dei cartelli che recitavano basta esternalizzazioni, perché già anche altre volte ne abbiamo parlato qui in radio, e i lavoratori e le lavoratrici delle pulizie della Sapienza lavorano in cooperative appaltate dall'Ateneo con contratti durissimi e tempi di lavoro forzanti, e sono da qualche anno a questa parte si bravano a mobilitare, sicuramente con qualche difficoltà, ma sicuramente pensiamo che già a partire da una sinergia, un collegamento tra le nostre lotte sull'accessibilità all'università, sulla possibilità di avere spazi di auto-organizzazione, autogestione, si debbano collegare con queste lotte sul salario intanto di questi lavoratori delle pulizie, anche per riconquistare tempi di vita. E la giornata da là poi si è andata piano piano appunto a scemare verso il Pratone, dove sono stati fatti nuovi interventi e a concludere in qualche modo una bella giornata di lotta che speriamo sia solo il primo passo verso un autunno sempre più caldo. Adesso mandiamo un po' di musica e ci rivediamo tra qualche minuto. In the world, and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star, she was very beautiful, leaving people in awe, singing songs, Lena Horne, but the younger version, hung with the wrong person, got a strong on that, sniffing up drugs, all in her nose, could have died so young, now looks ugly and old, no fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep, and the crowd you bring, cause they came to do drugs, and you came to sing, so if you're gonna be the best, I'ma tell you how, put your hand in the air, and take the vow, I know I can, I know I can, be what I wanna be, be what I wanna be, if I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be, boys and girls, listen again. This is for grown-looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see, as cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, for you meet a man with HIV. You can host a TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists, so act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys, you can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking and ice. You don't wanna be my age and can't read and write, begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can. Siamo in collegamento con un compagno della mensa di Napoli al quale chiederemo di darci insomma delucidazioni sulla mobilitazione prevista per il 7, dunque per questo venerdì, in vista del vertice del Premier Renzi a Bagnoli. Ci senti? Salve a tutti, grazie per la disponibilità. Ciao. Buongiorno. Senti, e insomma, se ci parli un po' di questo vertice, poi magari ti farò qualche domanda più specifica sull'università. Va benissimo. Allora, come tutti penso che sapranno, il 7 novembre era previsto l'arrivo di Matteo Renzi a Napoli, precisamente a Bagnoli. Tra l'altro una notizia che pare essere confermata è che la venuta del Premier Matteo Renzi non sia confermata, così sembra che il motto che abbiamo utilizzato qui a Napoli, che Renzi sta a casa, abbia funzionato, però comunque il 7 novembre ci vedrà in piazza tutto il movimento napoletano e tutte le realtà di lotta che si contrappongono alle politiche del governo Renzi, e infatti la manifestazione è confermata con tutti i contenuti che sono stati messi in campo da più di un mese di mobilitazione. Ora, cioè, se volete proprio farmi delle domande, oppure io posso, diciamo, enunciare tutte queste sono le motivazioni per cui scenderemo. Sì, magari raccontaci un po' dei contenuti che porterete in piazza. Sì. Allora, la venuta di Matteo Renzi precisamente a Bagnoli era appunto così come lui disse lo scorso 14 agosto, era per fare un punto sull'avanzamento delle politiche inerenti allo Sblocco Italia per il quartiere di Bagnoli. Lo Sblocco Italia precisamente appunto, c'è il decreto Sblocco Italia in cui è inserita appunto la questione di Bagnoli, che vede appunto una un commissariamento per quel quartiere, un commissario ad hoc che scavalca e poi appunto diciamo tutte le decisioni che potrebbero essere prese dal basso e vanno appunto si inseriscono in quella che è una logica ancora più di devastazione ambientale di quel quartiere che diciamo è martoriato da oltre 30 anni dalla delocalizzazione produttiva a licenziamenti. Quindi diciamo questo è il dato diciamo territoriale. Ma con noi come diciamo militanti saremo in piazza anche perché diciamo siamo convinti che le politiche che vengono prese dal governo Renzi hanno una direttiva ben precisa, che è quella appunto dell'Unione Europea, che delle direttive che vengono prese in sede europea, e appunto diciamo così come il decreto sblocca Italia è funzionale per ricevere i fondi dall'Unione Europea per il prossimo diciamo settennale 2014-2020, così diciamo tutte queste politiche sono perfettamente in linea appunto come dicevo prima da delle direttive prese in sede europea. Vediamo per esempio il Jobs Act, che non fa altro che diciamo far sì che anche in Italia avvenga quella ristrutturazione del mondo del lavoro che è stata diciamo che ha visto ristrutturato paesi diciamo a capitalismo più avanzato come possono essere quelli della Germania, oppure quello che ci tocca più da vicino come studenti, il decreto buono a scuola, che anche lì mette diciamo ma mettere i puntini su lei a quello che è appunto un processo di ristrutturazione nel mondo dell'istruzione in un'ottica sempre di più aziendalistica. E quindi diciamo sia come studenti ma sia come lavoratori a Nero, a Napoli, o lavoratori diciamo come se garantiti e non, noi saremo in piazza per dire no a tutto questo. Molto bene, senti, invece cambiando un po' argomento, ma neanche troppo, tu parlavi di buona scuola e noi, dato che come saprai abbiamo questa trasmissione che riguarda l'università che si chiama Sapienza Clandestina, volevamo un po' chiederti voi all'università che spazi e quali lotte portate avanti contro tutte queste politiche di cui tu bene ci parlavi prima. Esattamente, noi c'è anche così proprio come collettivo studenti Federico II, il nostro diciamo focus il nodo su cui diciamo si incentrano tutti i nostri ragionamenti da molti anni a questa parte, appunto diciamo questo nodo dell'aziendalizzazione, ovvero diciamo che appunto il decreto buona scuola Renzi in maniera neanche troppo velata punta il suo attacco appunto, quindi è una lotta contro l'aziendalizzazione che fa sì che l'università si adatti sempre di più alle esigenze del mercato, alle esigenze dei privati e molto diciamo è il tutto a discapito di una formazione veramente critica per lo studente. Quello che appunto vediamo nelle nostre università è un degrado oramai che investe tutti i campi che vanno appunto dall'infrastruttura edilizia ad esami che date già fissate non vengono più sostenuti, cattedre che scompaiono, a tutto questo diciamo l'istituzione accademica è compartecipe e noi diciamo ci opponiamo a questi scempi avendo trovato come focus per la nostra iniziativa quella che è la riappropriazione diretta di spazi che vengono lasciati inutilizzati dalle università, riappropriazione diretta che poi viene messa in campo tramite l'auto-organizzazione di tutti gli studenti, ed è per questo che noi stiamo facendo da anni un lavoro su quelle che sono le mense. Ad esempio noi all'università abbiamo due aule occupate, lo spazio di marzo alla facoltà di lettere e filosofia e la C4 occupata nella sede di Monte Sant'Angelo, che è diciamo, la sede scientifica dell'Università di Napoli, e il nostro lavoro delle mense si è concretizzato sia con la mensa occupata a mezzo cannone, oramai diciamo il 21 novembre sono due anni di occupazione, ma anche diciamo nel polo di Monte Sant'Angelo è stata occupata un'ex mensa di chimica che era stata dichiarata inagibile, quando per esempio oramai sono quasi 2 anni che vengono, invece dopo essere state occupate vengono messe in campo iniziative controculturali, un pranzo sociale una volta a settimana, una biblioteca dove veramente gli studenti possono trovare dei libri che sono funzionali alle loro esigenze. E questo diciamo è quello che diciamo noi abbiamo individuato per riappropriarci di quello del diritto allo studio, è veramente diciamo la riappropriazione di posti, diretta dei posti che vengono lasciati inutilizzati all'università e fatti vivere con la tua organizzazione. E siamo convinti che comunque siamo solo noi studenti all'interno dell'università che possiamo riprenderci quello che ci viene tolto quotidianamente. E in questo senso, ad esempio, ci sono anche appunto, come dicevo, sia una biblioteca nell'ex mensa di chimica, ma anche una biblioteca nella facoltà di lettere e filosofia, dove magari si cerca anche l'appoggio di quei professori che sono un po' più sensibili a queste tematiche, per far sì che lo studente che venga in queste biblioteche possa trovare un libro senza magari essere dovuto essere soggetto al ricatto dei professori che dicono questo libro tu è necessario affinché tu possa sostenere l'esame, lo devi avere, quindi magari viene in questa biblioteca e oltre diciamo ad uno studio più veramente socializzato, condiviso e critico può trovare proprio subito la risposta a quella che è una mancanza che è dell'università e non è mai una colpa dello studente quello di non avere i soldi per poter permettersi di leggere un libro e di studiare. Questo è quello per quanto riguarda diciamo la parte un po' più cioè la parte pratica. Dal punto di vista teorico, in quest'ultimo mese abbiamo dato avvio e abbiamo sviluppato un quaderno che diciamo spiega a tutti gli studenti qual è il diritto allo studio e come viene praticamente negato. E noi abbiamo comunque scritto in questo opuscolo che si può trovare sul sito studentifedericosecondo.org, analizzando ad esempio il sistema bibliotecario, il sistema dei trasporti e tutto il sistema mense, e vediamo diciamo cercando di analizzare per quelle che nelle nostre possibilità in maniera più scientifica quelle che sono appunto qual è il diritto allo studio che ci spetta e come viene diciamo attuato male e quali sono le nostre possibilità per andarcela a riprendere. Questo diciamo per linee molto generali quello che praticamente quotidianamente facciamo avanti e facciamo all'università per tutto quello che ho detto, scusate sono un po' emozionato, noi saremo per esempio le mobilitazioni che partiranno contro il decreto buona scuola ci vedranno diciamo pronto? Ti sentiamo. Ci vedranno schierati diciamo sempre ad opporci appunto al decreto buona scuola, faremo qualsiasi mobilitazione, anzi ne saremo diciamo i primi promotori della manifestazione appunto per dire no al decreto buona scuola. Ovviamente siamo consapevoli che tutto quello che ci viene fatto è un attacco della controparte molto forte e che quindi diciamo è solo quotidianamente che possiamo appunto riprenderci quello che ci spetta. Sì, ti ringraziamo per questa corrispondenza, penso per noi ci fa sempre piacere sentire compagni di altre città che in qualche modo parlano dei nostri stessi temi e soprattutto più che parlare portano avanti spazi di autogestione e di autorganizzazione dentro altre università. Nel vostro caso appunto è un lavoro che va avanti da anni e che vi restituisce anche diversi spazi occupati in un momento, come sappiamo, molto difficile, no? Per chi prova a costruire un'università differente. Io ti faccio solo una battuta a caldo, visto che Renzi, nonostante sia premier da pochi mesi, ha già forse un record, quello di aver dato buca a più eventi di tutti gli altri premier negli ultimi anni. Ricordiamo Torino, ha già dato buca due volte, adesso vi dà buca pure a Bagnoli, dove avevate preparato un signor benvenuto. Questo che dovrebbe essere il premier, il nuovo premier particolarmente amato dagli italiani, ovunque va, dalla Sicilia alla Lombardia, riceve contestazioni, e quando si preparano mobilitazioni come quella che doveva essere il 7 al Bagnoli, non si presenta proprio. Faccio una battuta su questo. Sì, appunto, quello che ho detto, il motto che abbiamo utilizzato noi compagni napoletani in questo periodo era Renzi è fatta casa. Evidentemente lui ha ben recepito questa cosa qua. Noi comunque molte testate giornalistiche avevano espresso, dicendo che i manifestanti erano delusi dal fatto che Matteo Renzi non venisse. Noi non siamo assolutamente delusi dal fatto che non venga. È un primo passo. Ovviamente non ci accontentiamo del fatto che comunque Matteo Renzi consideri Napoli una città ostica per la sua presenza, ma questo ci dà ancora più voglia di fare. E infatti quelle che erano i contenuti della mobilitazione del 7 sono confermati, e conferma anche il concentramento che alle 9 a Piazzale Teccio per il 7 novembre, perché anche se Matteo Renzi non viene, comunque resta la macelleria sociale che lui sta facendo in nome appunto delle direttive dell'Unione Europea, e che quindi il 7 novembre chi si oppone realmente a tutte queste logiche di sfruttamento realmente poi sarà in piazza a contestarlo, anche se con quello non venga. Ti ringraziamo, un abbraccio forte ai compagni e alle compagne di Napoli, un in bocca al lupo per questa mobilitazione del 7, a risentirci presto, un abbraccio. Crepi, buon proseguimento di trasmissione. Grazie. Ciao, grazie. Qua la truffa è grossa e congeniata, lavoro intermittente, solo un emittente, pure l'aria pura va pagata. In giro girano tutti allegramente, con la camicia nuova strafirmata. Nessuno che ti sente, parli inutilmente, pensano tutti alla prossima rata. Soldi pesanti, doruccolato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera, sopra il silenzio di questa galera. Girano tutti a pecorone sotto i precetti della madre chiesa, in fila in processione, in fila in comunione, in fila con le buste della spesa. Giovanni grida solo per la via, fermatevi, parliamo di poesia. Ma tutti vanno avanti, contano i contanti, minacciano di chiamar la polizia. Soldi pesanti, doroculato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera, sopra il silenzio di questa galera. Soldi pesanti, doruculato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera,